Il livello numero 8 è dedicato a body movement, cioè al movimento corporeo. Andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Il movimento corporeo è la medicina della salute per eccellenza. Se sfogliate la storia dell'uomo, il movimento corporeo, non l'agonismo, è sempre stato inteso come componente indispensabile per una vita longeva e di alta qualità. Ora ti svelerò 7 motivi profondi e per lo più sconosciuti per cui integrare l'approccio di movimento corporeo può fare tutta la differenza del mondo per raggiungere il tuo risultato. Primo, il movimento è un simbolico che dialoga direttamente con l'inconscio. Tu non sei a conoscenza di quali note lo spettacolo sta facendo vibrare dentro di te, ma senti di esserne magicamente trasportato. Secondo motivo, il movimento è quadridimensionale, poiché nel suo manifestarsi include altezza, lunghezza, profondità e tempo, dato che si svolge sempre in un continuum. Il movimento è altresì in grado di fermare o accelerare la percezione dello scorrere del tempo stesso. Il tempo è indomabile, non può essere recuperato e nessuno è in grado di sottometterlo. Nei confronti del tempo possiamo scegliere se viverlo in pienezza oppure lasciarlo scorrere via. Terzo motivo, il movimento esiste anche come suo opposto, in qualità di assenza di movimento. L'inattività ed il riposo sono infatti componenti essenziali della quotidianità umana. Attraverso l'indagine dei tuoi movimenti diurni oppure notturni, è altresì possibile dedurre le tue caratteristiche intrinseche, profonde, naturali e addirittura migliorarle. Quarto punto, qualsiasi sia il movimento a cui ti sottoporrai, esso ti farà inevitabilmente arrivare in un luogo diverso. Il movimento corporeo è dunque il mezzo di trasporto archetipico di ogni essere umano. Quinto, il movimento corporeo è il più dirompente strumento in natura per cambiare o far cambiare idea ed opinione. Sesto, un corpo privo di movimento è anche un corpo privo di vita. Settimo ed ultimo punto, è una pratica potentissima creare protocolli basati sul movimento corporeo, su body movement, poiché si accede naturalmente a dimensioni di lavoro estremamente efficaci. Anche per questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!